Letture di Radio 24. Diciassette pezzi di legno per uno degli oggetti di design più apprezzati dell'intero Novecento. Con questi semplici materiali, Thomas Rivelt compose la sedia rosso-blu nel 1923. Una mostra ripercorre lavori e opere dell'architetto che sfidò il design della sedia. Mettendo insieme 17 pezzi di legno, un giovane falegname di Utrecht è riuscito a creare uno degli oggetti di design più venerati del secolo scorso. Tutti conoscono infatti la sedia rosso-blu del 1923, subito considerata la risposta tridimensionale alle tele astratte di Mondrian, come anche la casa Schröder, dal 2000 patrimonio dell'UNESCO, piccola dimora che al posto dei tetti e pareti sembra avere dei fogli di carta semplicemente appoggiati e dipinti con i colori manifesto dell'avanguardia olandese. Queste due icone sono però costate care a Gerrit Thomas Rietveld, congelato per troppo tempo e per questo poco studiato nel ruolo di adepto del gruppo De Stijl, senza dar peso ad una lunga carriera fatta di architettura, urbanistica, artigianato, allestimenti e tanto altro. L'ampia retrospettiva appena inaugurata al Maxi, a cura di Maria Stella Casciato, Domitilla Dardi e Ida van Ziel, promossa con il Central Museum di Utrecht e il NAI di Rotterdam, ci indica orizzonti che cercano di sciogliere questo cortocircuito, evidenziando lo spessore delle sue ricerche in relazione alle tematiche su cui si giocano le sfide della cultura architettonica del Novecento. Cogliendo appieno la lezione delle avanguardie, Rietveld cominciò presto. Nel 1917 apre il suo primo atelier di falegnameria sulle orme del padre, ad inseguire l'idea di uno spazio flessibile, aperto, senza soluzione di continuità, al grido di semplificare la vita ed eliminare il superfluo. Un obiettivo da raggiungere sfruttando la standardizzazione e la produzione di massa. Dietro alle forme astratte, al rigore geometrico e al suo raffinatissimo ascetismo contadino, parole di Alessandro Mendini, si può infatti leggere la fiducia nell'utilizzo consapevole delle logiche industriali che lo condurranno a concentrarsi sul processo costruttivo piuttosto che cedere alle lusinghe dell'esito formale. Considerare il progetto come la ricerca di una forma, per quanto moderna, secondo Rietveld, avrebbe comportato il pericolo di un ritorno al caos stilistico di fine Ottocento e per questo egli cercò innanzitutto di lavorare partendo dalla scomposizione analitica di ogni sua opera in pezzi ben riconoscibili. Un metodo, e non un'estetica, che lo porterà a ripensare e rinnovare il suo vocabolario, mantenendo però sempre salda l'idea di utilità, evidente nei numerosi esperimenti sull'edilizia a basso costo e sulla prefabbricazione. Attraverso disegni, fotografie e modelli provenienti da tutta Europa, la mostra svela le sperimentazioni di Rietveld dagli esordi legati al neoplasticismo fino alla rilettura del funzionalismo europeo nel secondo dopoguerra, proponendo efficaci accostamenti che dimostrano l'influenza di Berlage e di Wright, i contatti con gli altri protagonisti della stagione eroica del moderno e la sua influenza sul progetto contemporaneo. Largo spazio è concesso al design. Sorprendono gli oggetti per bambini, in sintonia con le ricerche di Alma Buscher al Bauhaus, come il seggiolone convertibile e la Strandwagen, un fantastico carretto da spiaggia, pensati per conciliare ergonomia e facilità di produzione con un occhio di riguardo per il loro ruolo pedagogico. Anche per questo il Maxi ha dedicato ai bambini Laboratorio Rietveld, padiglione progettato dall'architetto scandinavo Sami Rintala, nel quale sarà possibile costruire modellini in legno e cartone di questi capolavori. E poi ovviamente le sedie più celebri, oltre alla rosso-blu, oggi prodotta da Cassina, presente in diverse decorazioni ci sono le sedie in tubolare metallico, quelle realizzate piegando un unico foglio di materiale, la Birza e la First Model, che condurranno alla famosa Zigzag del 1938, e quelle fatte con poche assi di legno, da consegnare al cliente in un comodo kit da assemblare una volta tornati a casa, molti anni prima del fenomeno IKEA. Mobili che ti puoi fare da solo, come suggerirà Enzo Mari con la sua proposta per un'autoprogettazione del 1974, nei quali si ritrova l'ostinazione di un design capace di essere assimilato mentalmente e fisicamente da ognuno di noi, senza preoccuparsi dei capricci della moda. Troppo rigidi? Non secondo l'olandese. Se le giunture sono chiaramente visibili e la tendenza del legno a piegarsi non è ostacolata da tentativi disgraziati di incollaggio, posso permettermi di trovare persino una bella cassa di legno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo State comodi, arriva Rietveld, di Gabriele Neri, dalla Domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi. Oggi più che mai dilaga il narcisismo. È quanto si apprende da una ricerca americana che, analizzando un campione di 16.000 studenti, ha fatto notare come a emergere siano arroganza, egocentrismo e materialismo. La ricerca negli Stati Uniti. Analizzati i profili psicologici di 16.000 studenti. Dilagano arroganza, egocentrismo, materialismo. Il motivo? In un mondo così competitivo che esalta gloria, fortuna e ricchezza, la forte autostima aiuta a stare a galla. Il narciso della specie umana sboccia tutto l'anno ed è un peccato che non abbia una fioritura breve e intensa come il suo omonimo vegetale. Invece è destagionalizzato, tipo i pomodorini in serra, e cresce ovunque, specialmente nel mondo giovanile, suscitando una pericolosa ammirazione. Proprio quello che vuole. L'allarme narcisismo, questa volta, arriva da Jean Twenge, psicologa della San Diego State University, che ha condotto una ricerca su 16.000 studenti e li ha trovati malatissimi. I sintomi? Arroganza, egocentrismo, scarsa empatia, materialismo spinto. Ed ecco i dati. Negli ultimi 30 anni i narcisisti sono diventati un esercito, il 30%, mentre nel 1982 erano soltanto il 15%. Un altro studio su 35.000 persone di varie età ha dimostrato che oggi i giovani sono molto più narcisisti degli anziani, il 10% contro il 3%, mentre prima era il contrario. Era l'esperienza ad alimentare questo disordine della personalità, mentre adesso narcisisti quasi si nasce. E lo si diventa facilmente, alla luce dei riflettori. Jean Twenge punta il dito contro genitori troppo permissivi, cultura delle celebrità e internet, un cocktail micidiale. Gli studenti intervistati hanno ammesso sereni che il narcisismo è una necessità. Guai a esserne sprovvisti in una società così competitiva. Autostima, fiducia in se stessi, io sono il migliore, ho sempre ragione e via di seguito aiutano. Ma il narcisismo, spiega Twenge, non c'entra con la competizione. Questi ragazzi che sognano fortuna e gloria, ricchezza, perfezione fisica ossessiva, sono talmente convinti di essere dei fuori classe che nemmeno studiano. E fuori dalla classe ci finiscono sul serio. È un discorso già sentito, anche se non ancora sostenuto da una tale massa di dati comparativi. E adesso che ci sono, è ovvio, siamo circondati. Il protagonismo, il presenzialismo, lo sgomitamento per apparire, la capacità di manipolare gli altri sono considerati meriti un po' in tutti i campi. Il modello è quello dei reality. Basta esprimere una personalità, avere un'abilità qualsiasi, raccontare barzellette, sedurre, far piangere. Involontariamente il tronista di Uomini e Donne è diventato il simbolo del narciso corteggiato. Deliziosa la parodia di Claudio Bisio a Zelig, dove Claudiano mastica gomma mentre Tatiana e Valeriana si accapigliano per lui. Come Vittorio Sgarbi può essere considerato l'esempio perfetto dell'istrione con un suo pubblico adorante. Le società, è vero, hanno sempre avuto i loro narcisisti, artisti, attori, ballerine e anche qualche nano. Il problema è che adesso stanno diventando troppi o troppo ingombranti, come segnala la presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Maria Lori Zaccaria. Ingombranti al punto da provocare un'ondata di manualistica specializzata. Come difendersi da un narcisista, il più venduto. Guerra al narcisismo. Ho sposato un narciso, manuale di sopravvivenza per donne innamorate. Graziosa cover con un cerotto sul cuore. Ma è una contraerea piuttosto debole. Come ricorda Zaccaria, nel 2013, quando sarà pubblicato il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, a cura dell'American Psychiatric Association, Bibbia della psichiatria internazionale, il narcisismo patologico non ci sarà. Cancellato. Perché non c'è una pillola che lo guarisca, non c'è business per le aziende farmaceutiche e allora tanto vale non prenderlo in considerazione. Si profilano tempi duri tra Grandi Fratelli e Lady Burlesque, tra personalità onnipotenti e successo dell'eccesso, e nessuno pensa di chiedere per gli antinarcisisti una no-fly zone in attesa di tempi migliori. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'epidemia dei giovani narcisisti, di Rita Sala, dalla Stampa di lunedì 4 aprile.